later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il centro e le periferie vengono continuamente ridefiniti, Kappa e Drago si stanno perdendo. Senza la bussola non è semplice, Drago, te l'ho detto. Infatti, vagare per la fabbrica senza punti di riferimento è come vagare per il deserto. Rischi di fare dei grandi giri in tondo. Certi giri, se non li fai in tondo, come li fai? È il momento di farlo spiritoso. Non è spiritoso, è logica. È logica, mi hai coinvolto in questa assurda caccia ai nuovi limiti della fabbrica senza motivo. Io lo faccio a fin di bene. Se non troviamo una via d'uscita, rischiamo di rimanere qui dentro per sempre. Ma ormai il processo è irreversibile, Kappa. Il mondo si sta trasformando in una grande fabbrica di polli. Poi è la fabbrica di polli che si sta trasformando nel mondo, che poi è la stessa cosa. Vabbè, ma l'avevamo previsto fin dall'inizio. Qui si fabbricano polli. Il numero di polli fuori dalla fabbrica è in costante aumento, ci sarà un motivo, no? Qui i polli non li allevano solo per la carne e le uova, no? Li mandano anche in giro a far proseliti. Una volta pollizzati, tutti faranno gli interessi della fabbrica, hai capito? Che si alimenta da sola. Ah, come la valletta che ha bisogno del paparazzo perché una senza l'altro non hanno motivo di esistere. Eh sì, come l'avvoltoio e la carogna. Proprio così. La fabbrica di polli. Allora Tarek, secondo i miei calcoli, oggi è la centesima serata che ci ritroviamo qui, io e te, da dopo la pausa estiva. Ora siamo andati in Romania, ti ricordi, no? Romania. Ecco, e 100 è una cifra che fa impressione, eh. Con l'anno scorso siamo a 190. E vuol dire che poco per volta stiamo invecchiando, Invecchiamo. Ma non vuoi smettere di ripetere la mia ultima parola? È la gag più antica del mondo, Però anche quella che fa più ridere, Però ce n'è un'altra che fa ridere uguale, caro Tarek. Ed è una gag che ha le sue origini tra i pubi siciliani. Hai presente quei burattini tutti colorati che si usano in Sicilia, no? Sicilia! Ecco. E tu saprai senz'altro che quando due pupi cominciano a discutere, la discussione va avanti delle ore. Sai come sono i siciliani, no? Prolissi, barocchi, pieni di sottintesi. Questi parlano per delle ore senza dire niente, Ecco. Però dopo un po' di ore che i due parlano, alla fine spunta sempre fuori un bastone. Nella vita vera spunta il coltello, ma nei pubi invece c'è un bastone. Bastone! Ecco, bravo Tarek, bastone, come questo, lo vedi? No. Lo senti adesso? Sì. Ecco, infatti hai smesso di ripetere la mia ultima parola. Tarek, ma tu hai proprio un talento negativo, Talento negativo! Allora vuoi fare come i pupi? Perché tira fuori il coltello, Il coltello, no! La fabbrica di polli. Ecco, ed eccoci qui, 40 anni, su un viadotto dell'autostrada a prendere il vento, e non so quanti metri d'altezza, il tutto all'interno della solita fabbrica di polli. Non disperare, dai, goditi la bellezza postmoderna di un viadotto dell'autostrada risparmiato dall'ampliamento della fabbrica, abbandonato all'usura del tempo, guarda che bello, come un antico tempio azteco. Sembra di stare sul set di Blade Runner, dai, oppure nella tela di un Edward Hopper in acido. Certo che tu a trasformare le miserie reali in figate immaginarie sei un campione, Siamo nel mezzo del niente, qui io e te da soli, senza prospettive di modificare questo stato di cose, in piena crisi di mezza età. Ma parla per te, E tu te ne esci fuori con Blade Runner e Hopper. Tu hai visto troppi film, hai sentito troppi dischi, hai letto troppi libri. No, io i libri li ho sempre letti a metà. A metà? A volte anche solo le prime 10 pagine. Ma lo fai per scelta? No, perché dopo un po' è come se sentissi la voce dell'autore che mi dà fastidio, capito? La voce dell'autore? Sì. Sì, il suo modo di farsi bello, no? Sai quando uno scrittore se la canta, se la suona e alla fine i lettori non ci sono più, rimane solo lui. Vabbè, ma dai, che si racconta le cose. Ho capito, ma non tutti i libri sono così. Sì, Drago, tutti i libri sono scritti da qualcuno. Per forza. E quel Comandante! Comandante capo! Mi ha preso la sindrome del libro! Capo! E quel qualcuno, accidenti, non se ne sta mai zitto. Sai che effetto fa la mezzanotte in una città del mezzogiorno, confonde le onde radio con il mare. Salam a tut da Mohamed Lerkman Vlang. Da kalde frequenz de radio Rekmanistan, avule potenziale martere kamikaze tutte in ascolto. Il viaggio nella notte comincia con saluto di gratitudine a tutte quelle che lavorano de notte in pozzi de patrulli. Rischiando vita per nostro grande paese, grazie, fratelli, grazie. Questa notte vi porteremo a esplorare musica indipendente arcmena, sotto bosco creativo dove giovani arcmeni esprimono amore per vita arcmena e per figure arcmena di generale Sparahar, con ottima composizione che sperimentano potenziale musicale di mina anti-uomo. Buon ascolto da Mohamed l'Arcmeno Volante. La fa! Spolli! Ma capo, ma dove mi hai portato? Cioè, stai lì col cannocchiale, non si vede niente. No, non si riesce a vedere la fine della fabbrica nemmeno col cannocchiale. Niente. Forse i lavori di ampliamento sono andati oltre le previsioni più azzardate. Sì, va bene. Direi. Cosa volevi fare, tanto? Cosa? Volevi arrivare lì dai capisquadra che comandano i lavori e dirgli: "Uè, ciao, siamo Cappa e Drago, come va? Sai, noi vorremmo uscire di qui e ci daresti un passaggio fino a casa? Noi siamo di Milano, qui dove siamo?" Il rischio è che così. Sì, il rischio però è che ti rispondano che ormai qui siamo, che ne so, in territorio sloveno o svizzero o francese a seconda della direzione che abbiamo preso, capito? Svizzero sarebbe perfetto. Come? Usciremo di qui e io potrei liberamente esprimermi in mia madrelingua senza fare tante sforzi di sembrare un normano italiano ciarlatano materazzo. Sì, mi sembra strano che la fabbrica di Polli possa riuscire ad annettersi la Svizzera. Non ce l'ha fatta mai nessuno, nemmeno Hitler. Mentre tutta l'Europa veniva invasa senza tanti complimenti dai nazisti, la Svizzera rimaneva misteriosamente libera e indipendente. Ma! Cosa vuole tu insinuare? Niente, ci mancherebbe pure, solo una cosa. Svizzera era neutrale, non collaborazionista. Certo. Diverso. No, ma è quello che volevo dire neutralità. Che... Neutralità! No. Sì, ho capito, ma gli svizzeri sono esenti dalla pollizzazione. Forza di stare isolati per conto loro, sono diventati immuni da ogni forma di mutamento sociale del XXI secolo. Questo è molto possibile. Molto probabile e possibile. Molto probabile e possibile che noi siamo in Austria, secondo me, perché gli austriaci si fanno annettere senza porre resistenza. Anzi, si annettono da soli. Che cosa succederà adesso? I lavori di ampliamento hanno sconfinato in Austria? E se sì, quale sarà la reazione del vecchio Kurt Waldheim? I send greetings on behalf of the people of our planet. Lo scoprirete soltanto sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo revisionistico allestimento de... La fabbrica di Polli produce, non chiude, non chiude mai. La Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Cary Grant è morto. Steve McQueen è morto. Aldo Moro è morto. Christopher Reeve è morto. Elvis Presley è vivo.